Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Dopo Lampedusa arriva una decisione dall'Europa. La plenaria dell'Europarlamento, prima di chiudere la sua sessione, ha dato il via libera al nuovo sistema di coordinamento europeo di sorveglianza della frontiera esterna sul Mediterraneo. Immagini satellitari, dati radar e avvistamenti per combattere l'immigrazione clandestina. Dal 2 dicembre partirà Eurosur, il sistema di coordinamento europeo dei mezzi di sorveglianza della frontiera sul Mediterraneo. Vale a dire uno sforzo dell'Unione Europea per evitare che il sud dell'Europa diventi un cimitero di rifugiati, come ha commentato la commissaria per gli affari esteri Cecilia Malmström. L'approvazione è arrivata dal Parlamento Europeo con 479 voti favorevoli, 101 contrari e 20 astenuti. In Italia e in altri 17 paesi dell'Europa sudorientale il sistema sarà attivo da quest'anno, mentre negli altri paesi partirà dal dicembre 2014. Dal Parlamento Europeo però avvertono: Eurosur non dovrà essere utilizzato per inviare ad altri paesi informazioni utili per identificare una persona che ha chiesto la protezione internazionale. Con questo nuovo strumento, i nuovi centri nazionali di coordinamento e Frontex si scambieranno immediatamente informazioni su incidenti e pattugliamento, ha aggiunto la Malmström. Così facendo, insomma, si avrà la possibilità di prevenire reati trasfrontalieri come il traffico di droga e la tratta di esseri umani, ma anche sarà più facile individuare le piccole imbarcazioni di migranti in pericolo e fornire loro assistenza. Valentina Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E una delle prossime sessioni del Parlamento Europeo potrebbe avere un ospite, Martin Schulz, presidente del Parlamento, in visita in Vaticano, ribadito questa mattina a Papa Francesco l'invito a partecipare ad una sessione. Oggi l'energia è il tema a Bruxelles, con il sistema energetico osservato speciale. Sono seriamente preoccupato per la stabilità in Europa da qui ai prossimi 10 anni, e l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti insieme agli altri giganti dell'energia europei, chiedendo di rendere il settore di nuovo investibile con uno stop ai sussidi per le tecnologie ormai mature e ammonendo sul bando eccessivamente frettoloso del nucleare che pesa ugualmente sui prezzi dell'energia. La Germania ora, ha detto Conti, a 20 miliardi di costi extra e sta perdendo competitività. L'ESM, il meccanismo europeo di salvataggio, ha fatto intanto il suo debutto questa settimana con un'emissione di 7 miliardi di bond quinquennali. Un segno di fiducia verso il sistema messo a punto e verso l'Europa. Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un primo passo verso gli eurobond. Secondo Yanis Emaulidis, Director of Studies at European Policy Center, il fatto che l'ESM sia riuscito a lanciare un bond a 5 anni e abbia riscosso un tale successo è un fatto estremamente significativo. Well, the fact that the ESM had been able to launch long-term five-year bonds. Ma lo sentite? Secondo lo stesso direttore, intervistato da Euronet Plus, l'ESM e gli eurobonds sono due cose diverse che seguono strade diverse. E se si guarda chi in Europa è contrario agli eurobonds, come la Germania, la Finlandia o anche gli olandesi e gli austriaci, non hanno cambiato posizione. Rapporti ancora tesi tra Unione Europea e Russia, ci va di mezzo il mercato dell'auto. Tra Russia e Europa non corre buon sangue, ultimamente però lo scontro è sempre più frequente. L'ultimo in ordine di tempo ha per oggetto la tassa sulla rottamazione, imposta da Mosca sulle auto importate. Secondo Bruxelles si tratta di un dazio che il Cremlino non ha il diritto di mettere dopo il suo ingresso nella WTO. E questa volta la Commissione ha deciso di puntare i piedi, richiedendo l'intervento dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Erano stati fatti dei tentativi questa estate, consultazioni bilaterali che però sono fallite. Mosca ha continuato ad andare avanti per la sua strada, che vale parecchi soldi. Infatti la tassa va da 420 a 2.700 euro sulle auto nuove, da 2.600 a 17.200 su quelle con più di 3 anni e su altri veicoli tecnici sale fino a 147.000 euro. Un vero e proprio salasso per i produttori europei, grazie al quale Mosca avrebbe incassato già oltre 1 miliardo in un anno. La vicenda del paradosso sale per Bruxelles, perché l'Europa ha sostenuto l'ingresso della Russia nella WTO e solo pochi giorni dopo si è vista reintrodurre il dazio sotto forma di tassa per il riciclo. La Commissione non contesta la tassa in sé, ma il fatto che sia applicata solo alle auto europee e non a quelle russe o a quelle dei paesi che fanno parte della sua unione doganale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Europa vi aspetta lunedì. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.